Distrazione, perfetto. Cominciamo? Sì. Allora ragazzi, benvenuti al quarto incontro di questo ciclo di seminari che si intitola Anatomia dell'irrequietezza. Per chi non mi conoscesse, ma vedo che più o meno siamo tutti, io sono Gabriele Di Maio e da 5 anni lavoro con, per esempio, nel progetto Frequenza 200 che si occupa di contrasto alla dispersione scolastica, e oggi abbiamo il piacere e abbiamo invitato Giuseppe Burgio, ricercatore di pedagogia all'Università Cuore di Enna, giudice onorario al Tribunale dei Minori, nonché membro dell'Osservatorio regionale sull'inclusione dei minori stranieri, giusto Giuseppe? Sì, nel frattempo sono diventato associato. Ok. Bene, notizie vanno. Esattamente. Allora, come vi dicevo, questo è il quarto dei 5 incontri e ci hanno portato a rivedere un po' le nostre pratiche e ad aprire una riflessione generale sul senso del nostro lavoro. Ti faccio subito un po' un sunto degli incontri. Totò ha portato la sua esperienza di operatore sociale e anche di educatore in una comunità. E diciamo quello che più io voglio portare del pezzo di Totò è che lui appunto ha parlato di uno spazio che l'operatore deve trovare all'interno di diverse pressioni che sono il contesto istituzionale, il livello associativo e il livello personale, e che dobbiamo trovare un po' la quadra in mezzo a questi tre livelli. Poi c'è stato Caro Gerolo Piccolo, che fa lo psicoterapeuta, e ci ha portato un po' una disamina storica di quello che è stato il sociale a Palermo, quindi da quando non esistevano per esempio i CERT, non esistevano le strutture istituzionali per diciamo andare incontro alle tossicodipendenze. Ci ha portato una serie di elementi storici che ci ha dato un quadro abbastanza chiaro e interessante su quello che è stato il terzo settore a Palermo. Poi c'è stato Ferdinando Fava, che ha portato un po' le pratiche di riflessività, e come diceva Martina Rina, che l'ha introdotto, parliamo di riflessività e non di riflessione. Cioè una riflessione può finire dove è cominciata e non se ne fa più niente. La riflessività è un po' la pratica che usano anche i ricercatori nel cercare di cambiare, come dire, la propria prospettiva in base alla società che cambia, e portare dei nuovi saperi per dare anche un senso al lavoro che facciamo, rapportarsi anche con chi lavoriamo. Quindi si è parlato anche di relazione, del fatto che la relazione è sempre più fuori, diciamo, dai progetti che sono inglobati in una pratica di performativa. E quindi questo è stato un po' il sunto. Ho cercato di portarti un po' quello che abbiamo in soldoni, a cui siamo venuti a capo. Oggi io ti porto la mia esperienza di educatore, perché ho lavorato 4 mesi come educatore in una comunità per minori stranieri non accompagnati, e ti porto un po' la mia esperienza e diciamo quello che ho vissuto all'interno di una comunità per minori stranieri non accompagnati. Quello che ho vissuto io è stato che all'interno di tutto il processo, non voglio entrare ora nel merito delle leggi, di come il sistema istituzionale ha creato il contesto per cui, di come vengono ospitati i ragazzi, voglio entrare semplicemente nella mia esperienza personale e dirti che io sono stato assunto come educatore, mi hanno fatto un contratto a tempo indeterminato, ho iniziato a lavorare nella comunità e a rapportarmi con l'equipe, e devo dire che trovavo pochissimi spazi per esercitare quello che mi ero immaginato di dover fare con i ragazzi. Quindi che cosa è successo? Che a un certo punto io mi sono ritrovato a fare gli sbrigo pratiche per i ragazzi, mi sono trovato a fare il guardiano notturno, mi sono trovato a fare, a volte mi sono sentito il badante. C'erano degli spazi di intermezzo dove per esempio io uscivo con i ragazzi per fare la spesa, per magari la sera a cena, o ci vedevamo un po' la televisione, e lì in quegli intermezzi io sentivo che stavo facendo il lavoro che dovevo fare e che potevo entrare in contatto con questi ragazzi. dire anche che sono stato assunto perché parlo due lingue straniere, quindi all'interno delle comunità c'è stato anche un problema di questo tipo. E la comunità da cui io provengo, devo lodare ovviamente, non per neanche c'è la responsabile di questa comunità che fa l'assistente sociale, che anche lei come gli altri si imbarca mena tra questo livello istituzionale e questo livello, diciamo, educativo. E devo dirti che sono stato assunto per il fatto che parlo delle lingue straniere, e io ho vissuto un po' la storia di questa comunità raccontata dai miei colleghi. La storia di questa comunità è che questa comunità si ritrova dall'ospitare, dal diventare una casa famiglia per ragazzi che sono nati a Palermo o hanno problematiche, diciamo, locali, si ritrova a un certo punto a diventare comunità mista tra ragazzi che sono nati a Palermo e che hanno le loro problematiche e minori stranieri non accompagnati. A un certo punto questa comunità diventa soltanto per minori stranieri non accompagnati. Questo ha fatto sì che si siano create tutta una serie di problematicità a partire dalle figure là dentro. Quindi si è parlato anche del fatto del ruolo dei mediatori culturali, per esempio, che in una comunità adesso si sta iniziando a parlare della presenza del mediatore culturale. Si è parlato io mi sono rapportato con una serie di figure istituzionali, quindi sono andato all'ufficio nome di immigrati, mi sono rapportato con gli assistenti sociali, col tribunale dei minori, e quando parlavo con, per esempio, con Alessandro Prisciandaro, che avevo anche invitato, e che un giorno ci siamo ritrovati tutti dall'ufficio nome di immigrati a parlare insieme con i ragazzi, o con Sebastiano Vinci, che lavora all'ASP e segue i ragazzi in ambito psicologico, ci siamo ritrovati a dirci una serie di cose che andrebbero fatte all'interno delle comunità. Quindi, che ne so, riunioni settimanali con i ragazzi, figura del mediatore culturale là dentro, accompagnatore legale, per esempio, là dentro. E quindi mi sono chiesto, ma io da educatore come posso incidere effettivamente? Io ho degli studi anche antropologici dietro di me, e la possibilità di parlare due lingue, e la possibilità anche di... mi sono ritrovato anch'io all'estero, fuori, a lavorare fuori, quindi fuori dal mio contesto familiare. Un po', forse questo mi ha aiutato a entrare in empatia con i ragazzi. Però ho avuto, come dire, la sensazione, l'irrequietezza, non so poi, insomma, altre persone che lavorano tuttora in queste strutture, di non essere efficace per come avrei voluto, preso un po' come tutti, forse da una macchina istituzionale che cerca anche lei di barcamenarsi, perché le cose cambiano rapidamente. Ora dico, il livello dei ragazzi, dei minori stranieri non accompagnati, capisco che negli ultimi anni soltanto è raddoppiato, è salito e si crea adesso una problematica reale. Però io mi sono trovato un po' in questa macchina, come dire, istituzionale più grande di me, e quando parlavo con la responsabile ci raffrontavamo con i miei colleghi per dire se potevamo organizzare delle riunioni settimanali, fare tutto quello che un po' si diceva, ci scontravamo anche con i turni, con il discorso del fatto che ci ritrovavamo da soli e non in compresenza, perché bisognava coprire tutto l'arco alle 24 ore. Quindi, diciamo, questa, io ti porto la mia esperienza personale, senza andare poi al di là di questo, perché voglio mantenermi solo su questo livello, e ti porto anche un aneddoto che magari hanno vissuto anche altri. Io un giorno sono andato a prendere un ragazzo dopo uno sbarco, sono stato alla questura di San Lorenzo, l'ho aspettato lì, c'erano tutti i gazebo, la polizia, eccetera, eccetera. Quando mi si è parato davanti questo ragazzo, mi ha detto come si chiamava, gli ho detto come mi chiamavo io, l'ho guardato negli occhi, siamo guardati. La prima cosa che gli ho fatto istintivamente è stato levargli il braccialetto identificativo che aveva, proprio strapparlo. Gli ho detto di venire con me, siamo andati in macchina, siamo andati in comunità, c'era anche un altro ragazzo che mi ha aiutato a tradurre un po' il suo dialetto. Insomma, questa è la storia che ti voglio raccontare. E poi un altro dato che voglio dare è che io ho lavorato prevalentemente con minori stranieri non accompagnati africani, prevalentemente dal Ghana dal Gambia, dalla Costa d'Avorio e dal Senegal. Questo è stato l'ambito, insomma, delle relazioni in cui ho lavorato. A gennaio 2017 ho deciso di dimettermi dalla comunità e sono tuttora in contatto con questi ragazzi. Ho, devo dire, un ottimo ricordo anche comunque del personale della responsabile, però ho deciso di fare un passo indietro e vedere se in un futuro appunto riuscirò a collaborare, a lavorare con questi ragazzi in un'altra maniera, cioè non come educatore all'interno della comunità, ma come forse esterno a portare delle cose ai laboratori. In un futuro mi immagino, insomma, questa maniera di lavorare con loro. Questa è la mia testimonianza e ora passo con piacere la parola a te. Grazie Gabriele, grazie a tutti e a tutte di essere qui, di avermi invitato. Ho scoperto perché dove ci conosciamo, perché c'è Facebook che mi dice ogni giorno da circa un anno: vuoi conoscerla? Vuoi conoscerla? Sei tu la reina che mi perseguita da ora. Facebook mi perseguita con mio nome. Esattamente. Il io sono. Vi racconterò un po' la mia esperienza con i minori stranieri non accompagnati, che è triplice, perché io per 2 anni ho lavorato con i minori stranieri accompagnati come insegnante, perché ho lavorato al quello che attualmente è il CPA Palermo 1, che è il CPA più grande d'Italia, ed è anche quello dove tutti i minori stranieri non accompagnati passano. Poi me ne sono occupato come ricercatore e al tribunale, che non è dei minorenni ma è per i minorenni, è mi occupo di minori stranieri non accompagnati. E allora ho cercato di raccogliere un po' di elementi per parlare dei minori stranieri non accompagnati non in termini di oggetti di cura, anche di questo inevitabilmente, ma vorrei ragionare su cosa significa la presenza dei minori stranieri non accompagnati per la società accogliente, cioè per tutti noi. Accogliente è un po' tra virgolette messo. Per differenza emergeranno quelle che dovrebbero essere, secondo me, le competenze degli operatori sociali che si occupano di minori stranieri non accompagnati. Io sono un pedagogista e quindi ragiono in termini di competenze, non di tutti gli operatori. Ho scelto un pezzetto piccolo, che è quello degli operatori che si occupano di minori MSNA. E le competenze che vi anticipo dovrebbero essere competenze intersezionali, competenze politiche e competenze narrative. Vi provo a dire come. In più faccio parte dell'osservatorio regionale sui minori stranieri, che diciamo in costruzione, visto che la Sicilia era una delle ultime regioni d'Italia che non aveva questo osservatorio, diciamo. Io ho preparato delle slide, ho da dirvi un po' di cose, potete interrompermi in qualunque momento, perché io non perdo mai il cosiddetto filo del discorso. Secondo alcuni, perché non c'è un filo del discorso, dico, però state tranquilli che non potrete interrompermi, anzi mi aiutate, in caso anticipo, sposto cose. Alcuni dati sono dati vecchi, perché sui dati nuovi c'è sempre un periodo di decantazione, ma di fatto non sono cambiate le statistiche. Parliamo quindi già di una situazione che era nettamente più tranquilla di oggi, perché oggi sono aumentati del 500% gli sbarchi dei minori stranieri non accompagnati. Comunque, del 500%, sì. questo lo vediamo noi per esempio al tribunale per i minorenni, dove nei primi tre mesi del 2017 sono arrivati tutti quelli che erano arrivati nel 2016 come numeri, quindi abbiamo numeri estremamente forti di minori stranieri. Erano circa nel 2015, quindi ragioniamo una situazione molto più piccola, perché ora è ancora più complicata. Erano 12.000 unità. L'81,2% di questi minori avevano un'età tra i 16 e i 17 anni. L'81,2%. Cioè significa che i minori stranieri non accompagnati non sono minori, sono adolescenti. Posso farti già una domanda? Sì. Questa è l'età rilevata, cioè l'età dichiarata? L'età dichiarata, certo. Ma abbiamo a che fare sempre con l'età dichiarata, certo. Abbiamo ovviamente gente che padri di famiglia che si dichiarano minorenni. Questo diciamo è effetto del fatto che la legislazione obbliga, o se tu vuoi entrare in Italia hai maggiore facilità se ti dichiari minore, se ti dichiari maggiorenne hai maggiori. Però il problema è che ci sono anche i minori. Allora il rischio è che è importante secondo me, innanzitutto vanno accolti, perché non sempre l'aspetto esteriore è un buon criterio, perché secondo le varie culture si sviluppa in maniera differente, quindi di fatto noi comunque abbiamo pochi bambini, sono per lo più adolescenti. Il 95,4% del totale sono maschi, significa che i minori sono adolescenti maschi. Le ragazze sono poche perché non partono, se partono non arrivano, e se arrivano arrivano all'interno della tratta, quindi hanno una serie di specificità. Ma facendo un'analisi generale, noi possiamo dire che sono maschi per lo più e adolescenti. La Sicilia è la regione maggiormente coinvolta nell'accoglienza. Abbiamo circa il 40% dei minori che arrivano, sono aumentati le percentuali. Deteniamo il più alto quantitativo i centri per migranti, soprattutto per MSNA. L'89,3% degli minori sono accolti in strutture di accoglienza, cioè sono adolescenti maschi istituzionalizzati, non vivono in famiglia, vivono in comunità. Questo è se noi dovessimo diciamo definire un criterio per definirli, sono queste quattro: sono maschi, minorenni, adolescenti e migranti. Allora questo secondo me ci può fare da guida per discuterne. Il dato che accomuna la stragrande maggioranza di questi ragazzi è l'esperienza del viaggio. Sono esperienze difficilissime, deprivazioni, violenze, rapimenti, cioè di tutto. Abbiamo tassi elevatissimi secondo Medici Senza Frontiere, che però è appattata con i trafficanti, come si sa ultimamente, e comunque Medici Senza Frontiere dice che ci sono tassi elevati di esposizione a psicopatologie, cioè spesso questi minori hanno traumi e quindi sviluppano psicopatologie. Quasi pone un primo problema, perché anche quando hanno un supporto psicologico non è un supporto psicologico orientato in senso interculturale. Cioè non si tratta di etnopsicologi, etnopsichiatri, sono i nostri medici che si occupano di loro. Questo crea un problema. Queste sono le principali rotte migratorie dall'Africa, perché poi ci sono quelle che vengono dal Bangladesh, dall'Asia. La ricezione che non abbiamo, noi li trattiamo come se fossero un problema, un tema legale, politico o umanitario. Cioè, ci concentriamo sui problemi che possono avere e sul i conflitti che possono generare. Io vorrei proporre un'ottica completamente diversa, cioè sottolineare il fatto che sono migranti. Allora vorrei definirli non minori stranieri non accompagnati, ma giovani migranti autonomi. Cioè gente che ha un progetto migratorio e che lo sviluppa e che questo va rispettato, va tenuto conto. Non sono dei minori abbandonati, ci sono anche, ma la stragrande maggioranza di questi che hanno 16-17 anni sono dei migranti. Allora questa cosa va rispettata. Perché noi abbiamo tanti minori, la globalizzazione, l'individualismo anche in quelle società che cominciano a deteriorarsi le strutture comunitarie, le economie locali che si riorganizzano, è una cosa che secondo me va rispettata, cioè che questi giovani hanno sviluppato una morale edonistica e vogliono successo, prosperità, realizzazione individuale. Questa è una cosa che va rispettata, cioè non soltanto per i nostri giovani, queste cose sono da tutti i giovani del mondo, hanno un progetto e loro perseguono. Dico autonomia, giovani migranti autonomi, facendo la differenza tra autonomia e indipendenza, perché non sono indipendenti ovviamente, sono dipendenti da milioni di cose, in patria, durante il viaggio, ancora di più qui. Però sono autonomi nel senso che danno legge a se stessi. Lo fanno già tutti gli adolescenti, loro in particolar modo. Hanno un progetto e questo va tenuto in conto, dobbiamo trattarli con loro. Scusi, è il fatto che loro molto spesso, almeno nelle nostre chiacchierate, mandano i soldi a casa? Certo. Questo è un progetto preciso per loro, il fatto di contribuire economicamente ad aiutare la propria famiglia che sta... Certo, cioè il fatto che noi abbiamo un sistema bloccato in cui migrare è estremamente difficile, mentre prima, quando abbiamo studiato tutti all'università i libri sulle migrazioni, diciamo, non partono i più poveri, partono quelli che hanno comunque un minimo di capitale umano, economico, paradossalmente partivano i più attrezzati. Oggi invece partono i soggetti più fragili, perché c'è un'intera famiglia che investe su una migrazione, investe economicamente e investe non sull'adulto forte che verrebbe respinto, ma sul minore che più facilmente può essere accolto. E quindi questi minori sono caricati di una responsabilità familiare, perché sono la prospettiva di prosperità o sopravvivenza per un'intera famiglia. E questa è la cosa che sono i soggetti più fragili che partono e partono già caricati da un peso notevole. Proprio per questo noi abbiamo il 50% di tutti i minori che arrivano sono minori non accompagnati, cioè arrivano da soli. E nel 2015 il 73% dei minori delle barche erano privi di un adulto di riferimento, neanche un parente, neanche un amico. Dal 2006 al 2010 10.000 minori si sono persi, cioè sono sbarcati, ma dal 2006 al 2010 10.000 minori stranieri sono persi le tracce. Sono dal 2006 al 2010, in 4 anni, sono il 42% del totale preso in carico negli stessi anni. La situazione non è così drammatica perché buona parte non hanno storie tragiche, ma vengono recuperati da parenti o amici dalle comunità e vengono comunque trasferiti all'estero, quindi non sono storie tragiche. Ci saranno anche storie tragiche in questo 42%. Quindi abbiamo una biforcazione: o il crimine o i network familiari che li riprendono, oppure l'istituzionalizzazione. Questo è effetto di una minorizzazione della povertà, quello che vi dicevo, cioè che ora sono i minori a essere poveri, a avere questa responsabilità. che sono, abbiamo appunto un'adolescentizzazione delle migrazioni. Il fatto di essere non adulti li espone a maggiori violenze, perché sono più fragili, meno si sanno difendere, meno. Arrivati in Italia sono legalmente non adulti, cioè non vengono considerati soggetti autonomi, vengono considerati minori di cui ci si prende cura ma che non esprimono una loro volontarietà, una loro intenzionalità. E poi vengono assolutamente infantilizzati, cioè vengono trattati come minori, non come migranti. Il sistema di accoglienza li infantilizza, l'istituzionalizzazione li infantilizza. Non è detto che nel paese d'origine siano considerati minori, perché per noi la minore età finisce a 18 anni. Ci sono culture in cui, alcune culture rom, per esempio, a 16 anni sei adulto, sposato, per noi sono bambini. Il fatto che siano infantilizzati fa sì che i minori stranieri siano un gruppo di cui tutti parliamo, ma è un gruppo che non parla. Nessuno ascolta la voce autonoma dei minori, però su tutti noi, su di loro invece si parla. Questo è un dato su cui riflettere. Ho combinato un guaio forse qui. Perfetto. Ok. Abbiamo detto che sono adolescenti, virgola, per noi, appunto. Che cosa significa adolescenza? Etimologicamente l'adolescence è chi l'adulteggiante, chi diventa adulto. Ma verso quale modello di adultità? Perché l'adolescenza non sono uguali in tutti i posti, alcuni posti non ce l'hanno, noi in Europa ce l'abbiamo da pochissimo tempo l'adolescenza, prima si era minori e poi si diventa adulti, l'adolescenza è un'invenzione assolutamente recente. Come diventano adulti questi minori? Crescono all'interno delle comunità. Cioè si confrontano con adulti che non sono della cultura d'origine. Cioè si confrontano con educatori, insegnanti, psicologi, assistenti sociali che esprimono un'adultità italiana, non i loro modelli di adultità. Noi abbiamo un'adolescenza che non conosciamo, che cresce non come avrebbe fatto nel paese d'origine, come fanno i nostri adolescenti, cioè confrontandosi con gli adulti della propria cultura, ma con adulti di un'altra cultura. Sono adolescenti, e questo già è un incubo, perché l'adolescenza andrebbe vietata per legge, perché è una cosa difficile per tutti. È maggiormente difficile per loro, perché sono in un'istituzione, cioè hanno delle regole rispetto alle quali sono ovviamente insofferenti. Le comunità hanno grosse difficoltà a dettare le regole, quindi spesso capita che abbiamo minori spiaggiati sul divano che dormono tutto il giorno, o positivi, hanno una serie di cose. Hanno una serie di sensi di colpa, perché loro sono qui per lavorare, non per stare a dormire sul divano a guardare, giocare alla PlayStation e a sentire noi adulti che diciamo cose. Quindi non possono mandare in soldi in patria. Alcuni hanno il desiderio di andare a scuola, altri lo vivono come una perdita di tempo, perché si sentono dei privilegiati che, mentre dovrebbero andare a lavorare per campare la famiglia, si trovano a scuola. Sono adolescenti. Gli adolescenti notoriamente si occupano di sesso, droga e rock and roll. Le comunità non fanno nessun tipo di prevenzione dell'abuso di alcol, di droghe e di sesso non protetto. Quindi abbiamo gravidanze non progettate tra le minori, abbiamo, ma anche questo è un dato culturale, perché per noi si tratta di maternità o paternità precoce, ma precoce secondo i nostri standard, non necessariamente rispetto ai loro standard. E allora questo è un problema, perché noi abbiamo casi di alcolismo tra i minori stranieri non accompagnati che interagisce negativamente su una sofferenza psichica, evidentemente. E allora noi viviamo, vivono questi ragazzi in uno spazio multiculturale, perché non solo si confrontano con adulti di un'altra cultura, ma si confrontano con coetanei di tantissime diverse culture. Cioè loro diventano, sono adolescenti che non sono all'interno di un contesto adolescenziale omogeneo, ma di un contesto adolescenziale multiculturale. Che cosa significa essere adolescenti? Secondo alcuni, secondo Akhtar, il processo migratorio modifica il processo psicologico dell'adolescenza. Allora, noi parliamo di un'adolescenza che non conosciamo, un'adolescenza che interagisce con altre adolescenze migranti che non conosciamo, e soprattutto all'interno di un processo migratorio che ricostituisce la costruzione identitaria. Ho parlato soltanto dei coetanei MSNA, perché i rapporti con gli adolescenti italiani sono estremamente difficili. Cioè, i minori stranieri non accompagnati hanno scarse relazioni con gli adolescenti italiani. Perché? Perché sono immigrati. Per cui noi abbiamo una, da parte degli italiani e delle italiane, freddezza, stigmatizzazione, diffidenza. Cioè non c'è uno scambio. Quindi noi abbiamo queste adolescenze che crescono in un ambito separato. Quando finirà il percorso di accoglienza diventeranno adulti in una società che di fatto non conoscono. Prego. Com'è che però io insegno in una scuola dove c'è il 50%? Dove sei tu? La Madre Teresa di Calcutta. Il 50%. Dove avete anche il CPA mattino? Esatto. No, io sono però nella scuola, c'è. E abbiamo anche sì. Però ci sono da noi bambini che arrivano e sono minori non accompagnati, ma vengono inseriti subito nelle scuole, nelle classi da noi. Pur non parlando la lingua, quindi tutto un processo, cioè io per esempio ricordo stamattina eravamo a Piazza Massimo della Diovizio e ce n'erano almeno 4-5, non parlano neanche l'italiano, sono venuti da 2-3 settimane, sono stati inseriti a scuola, inseriti nel coro, che chiaramente è una modalità più efficace e immediata. Quindi come avviene questa cosa di migliori che restano lì, cioè ci sarà un processo dietro per cui come che li mandano poi subito nelle scuole? No, allora, appena arrivano vanno nei centri di primissima accoglienza, CPA, non CPA, dove dovrebbero stare un periodo di tempo limitato, in realtà a volte ci stanno lungo tempo. Poi dovrebbero passare a una struttura di secondo livello, di seconda accoglienza, cioè una comunità alloggio. A volte non ci sono posti nel CPA e vanno direttamente invece nella seconda accoglienza. Hanno l'obbligo di iscriverlo a scuola. Sono fortunati i tuoi, perché nella provincia di Agrigento, per esempio, le comunità non sempre li mandano a scuola. Mi riferivo non al momento della scuola, alle ore scolastiche, ma alla giornata in generale, perché le comunità che sono in città possono permettere di uscire e farsi una passeggiata, ma ci sono comunità in a Bocca di Falco, per esempio, no? O in zone in cui tu vedi questi ragazzini che camminano nella statale per raggiungere il centro più vicino. A Palermo non ci sono, abbiamo fame di posti dove c'è talmente tanta l'afflusso che non ci sono posti, quindi quelli che tu hai sono quelli più fortunati. Vengono inseriti nella scuola all'anno. Il rischio è che nei trasferimenti, no, tutti dovrebbero andare a scuola, il problema è questo, ma la scuola è una sezione, dico. Io sto parlando di quella fascia 16-17enne che non hanno solo bisogni scolastici, ma hanno bisogno di socializzazione con i pari. Cioè nell'adolescenza il gruppo dei pari è fondamentale e non hanno spazi di socializzazione. Anche perché spesso vanno messi anche senza inseriti a scuola almeno 2 anni. Questo è illegale? questo è il legame. Aggiungo una cosa, ma nella maggior parte dei casi anche tre anni più grandi mai hanno a che fare con quell'anno. Allora oggi le scuole non si possono rifiutare di non accogliere i minori stranieri, per legge devono programmare e ricevere un numero tot di ragazzi stranieri. I ragazzi che avevo io in comunità, quando li abbiamo iscritti a scuola media, a parte che, come diceva Giuseppe, erano in età adolescenziale e sono stati inseriti in scuola media. Infatti questi che avevo... Quindi c'era un ragazzo di 2 metri che andava... E poi sì, però loro erano 4 loro, in quella scuola dove sono andati, non erano in classe con gli altri. Facevano... erano a sé. Cioè loro avevano l'entrata e l'uscita con tutti gli altri, ma poi facevano dei laboratori e una sorta di alfabetizzazione da soli. Sì, tenete conto però che state parlando dei minori di 16 anni, mentre io sto parlando dei maggiori di 16 anni, perché fino a 16 anni vanno nelle scuole normali, mentre tutti quelli, i minori spagnoli, come che la maggior parte sono 16-17 anni, dal 16esimo anno età vanno in CPIA, e i CPIA sono esclusivamente frequentati da minori spagnoli non accompagnati, perché ormai gli italiani sono pochissimi. Quindi di fatto stanno tra di loro, non stanno con gli italiani. Esattamente. Esattamente. O nel CPA o nei CPA. Sì, mentre i tuoi sono più piccoli. E allora vanno nella scuola. Vabbè, più piccoli sempre, però parliamo 14-15 anni, che sono in quinta elementare, attenzione, sono inseriti così. Certo. Allora, questa cosa è folle, perché la scuola non serve per soltanto per leggere, scrivere e far di conto, ma la socializzazione è fondamentale. Allora, il problema è che il mettere un sedicenne quei bambini è fuori alla grazia di Dio. Però anche la scuola è totalmente impreparata a tutto questo, dico, qua bisogna ripensare. Certo, chiaro. Il CPA Palermo 1 c'era ogni giorno i colleghi in burnout che urlavano nei corridoi perché non parla italiano, non posso fargli la lezione di matematica. Grazie. No, lo capisco, però parliamo di colleghi anziani alle soglie della pensione che per tutta la vita hanno fatto matematica a italiani e si trovano davanti 25-17 anni che li guardano e gli dicono che cosa vuoi da me. Maschi sono maschi, ma di quale maschilità? Perché anche i modelli di maschilità cambiano dal punto di vista culturale, ovviamente. Ora, questi modelli interagiscono in maniera... Sono modelli maschili di differenti origini e diversi dai nostri. Questo noi lo vediamo sui modelli di maschilità dei magrebini, che sono completamente diversi da quelli dei tamil o dei bengalesi. Cioè hanno stili, lavori che si... tutti i tamil lavorano, fanno le pulizie in casa. Un marocchino non se lo sognerebbe neanche di fare le pulizie in casa, dico, proprio perché è legato all'ideale virile di ciò che è possibile fare o non fare. Sono maschi infantilizzati e passivizzati, perché il sistema di accoglienza sono destinatari di cura, ma non viene richiesto loro di fare niente. Quindi hanno, diciamo, il corrispettivo è che loro spesso non vogliono fare nulla. Il problema è che sono in adolescenza e si proiettano verso un modello adulto di maschilità, che però è tutto da costruire. Il problema è l'omogeneità della socializzazione, perché i loro network amicali sono formati da minori stranieri non accompagnati, della stessa età, della stessa origine, della stessa lingua e dello stesso sesso. Cioè spesso, nonostante siano in un ambiente multiculturale, di fatto creano loro gruppi di amicizie assolutamente omogenei, e quindi è la negazione dello scambio e dell'intercultura. Vorrei farvi vedere qualcuno di questi minori non accompagnati. Voi sapete lo scandalo alla stazione Termini dei minori stranieri non accompagnati che si prostituivano? Succede anche a Palermo. Questo è un annuncio del 17/10/2016 su un sito di incontri gay in cui questo ragazzo si propone. Perché l'ho segnato? Perché io penso di conoscere questo ragazzo, ma soprattutto le altre foto erano foto prese in una comunità, perché c'era il letto, l'armadietto della tipico arredamento da comunità. Quindi esattamente, erano la foto, non ve le ho messe perché era più discinto di così, ma diciamo l'ambientazione era questo. Che cosa mi fa pensare questo? Che noi trattiamo come bambini persone che non si considerano bambini e che soprattutto cercano in tutti i modi di sfuggire al sistema di protezione, perché li infantilizza e perché cercano di ottenere quello di cui hanno bisogno, cioè soldi. Come possono fare a trovare soldi? Li trovano più facilmente in ambienti marginali, illegali, stigmatizzati, compreso quello della prostituzione, ovviamente, no? Cosa di cui, non è un reato, sono nella piena legittimità di fare il loro corpo quello che vogliono, ancora che minori. Cioè, è illegale per l'Italia, ma per loro è assolutamente un normale. Qual è il problema? È che noi abbiamo qui un contatto tra cornici concettuali estremamente diverse. Perché noi abbiamo un incontro tra un ragazzo che si prostituisce e un cliente che noi considereremmo omosessuale. Ma quello che avviene non è uno scambio omosessuale. Perché l'omosessualità è una concezione europea, per cui non corrisponde alla concezione che loro hanno, per cui l'omosessualità probabilmente nella loro mente non esiste, esiste una concezione diversa per cui esiste il maschile, che è colui che penetra, e il femminile, colui che è penetrato. Allora, chi ha un ruolo passivo o ricettivo, o è una femmina o è accomunabile a una femmina, quindi non c'è un'identificazione omosessuale da parte di questi ragazzi. Diciamo, è una concezione che noi in Sicilia abbiamo avuto fino a qualche decennio fa, una concezione idraulica del maschile, per cui sono proverbi tipo in tempi di carestia ogni buco è galleria, no? Cioè che è irrilevante il partner o la partner, l'importante è il ruolo assunto, per cui infatti non so se notate attivo lo segnala che attivo, cioè un ruolo esclusivamente penetrativo, questo gli permette di non considerarsi omosessuale. Questo c'è ancora per ragazzi da adolescenza, cioè, da me punto uno, diciamo, è ovvio, esattamente calzante rispetto, certo, a questo. È chiaro, certo. Cioè, non ha l'identificazione di una dimensione omosessuale, da certo. Io ti domino, ti penetro, esattamente, un studente maschile, anzi, esattamente. Cioè, di dominio quasi. È dominio. Ed è quello che accade qua. Il problema è che l'incontro non è così semplice. Perché il cliente è un cliente bianco, cresciuto al capitalismo, che sta comprando un servizio. Si considera omosessuale, sta comprando un servizio da un escort. Ok? Allora, non a caso, questo tipo di incontri sono spesso luoghi di violenza, ricatti, scontri, da una parte e dall'altra. Perché sono due mondi concettualmente lontanissimi, che entrano in contatto. In più abbiamo una differenza di età, perché il cliente non è un minore, è un maggiore, un potere economico non paragonabile, un cittadino e un migrante, uno con soldi, uno senza soldi, in cui il denaro è una forma di pressione e di ricatto, per pratiche che possono essere vissute come mortificanti per lo straniero. Allora, spesso questo è un luogo estremamente, come dire, rischioso, perché è facilmente scattare la violenza, in genere ai danni del cliente, ma trattandosi di minori non è detto. Non so se avete letto, vi consiglio il blog di Vassallo Paleologo, il blog, la pagina Facebook di Vassallo Paleologo, che io seguo continuamente, perché ci sono una serie di casi di queste cose, ogni tanto riposto delle notizie di minori che alla stazione di Termini Imerese hanno subito violenza omosessuale. Ora, le stazioni sono luoghi di prostituzione omosessuale, quindi qual è il limite e qual è il... Tenete conto che notizia, diciamo, dal tribunale per i minorenni, noi abbiamo la tratta delle minori, ovviamente, nigeriane, ma abbiamo anche, in parte più, diciamo, ridotta, la tratta di minori maschi nigeriani. La differenza è che il debito è nettamente minore, i ritmi di lavoro sono più leggeri, ma abbiamo questo tipo di tratta dalla Nigeria. Poi abbiamo una serie di prostituti provenienti dall'Egitto, che invece è una scelta volontaria, cioè fa parte del progetto migratorio, e parliamo di soggetti che non si identificano come omosessuali o bisessuali. Poi ci sono quelli che si considerano soggetti omosessuali e, diciamo, sono percorsi di tipo diverso. Dove vanno? Vanno al CPA Palermo 1, cioè una scuola nata da poco, che è stata pensata per altri scopi, cioè una scuola per adulti. È una scuola per adulti, e invece è diventata una scuola per adolescenti. 3.000 iscritti lo scorso anno scolastico, il più grande d'Italia, il 90% degli iscritti sono stranieri. 1.000 i minori stranieri non accompagnati, praticamente tutti quelli che nello scorso anno scolastico sono passati da Palermo. Sono scuole, sono classi, sono tutte pluriclasse, cioè classi, aule dove ci sta gente di livelli tutti diversi, dal punto di vista linguistico, scolarizzazione, l'analfabeta, il quasi diplomato, la babele, insomma il caos più totale. Ma siamo anche nel posto che più ha fatto per i minori stranieri non accompagnati, perché al di fuori c'è la barbarie. E allora noi abbiamo persone estremamente motivate, gente che fa ricerca all'università, che si impegna nel sociale, ma abbiamo anche gente che era passata al serale perché non riusciva a stare in classe al mattino, gente in burnout, gente che non è capace di attraversare una strada, per cui, diciamo, abbiamo non c'è una via di mezzo, cioè non abbiamo, o abbiamo professionisti spettacolari o abbiamo gente che andrebbe, diciamo, chiusa in casa e ti mandiamo lo stipendio in casa, basta che non esci. Questo, diciamo, è il... E qui mi pare di aver capito che una delle cose lì dentro è che gli strumenti a disposizione in termini di testi, di materiali di studio sono non adeguati. Cioè, perché essendo una scuola per adulti non ci possono essere libri di testo. Quindi se vuoi puoi fare delle fotocopie e ti ricreare gli strumenti. Però le fotocopie ci sono tratte da testi, diciamo, tutti metodologie legate al... Questo dipende dal docente, perché esistono anche testi per L2 italiano come L2 per adolescenti. In più c'è un grosso lavoro da 2 anni a questa parte di formazione dei docenti, di autoformazione, di formazione da ITASFRA, però i benefici si vedranno con gli anni, non sono affatto nuovi. Altro problema è che è una scuola. La scuola nasce sul modello delle caserme. Convento, la caserma, la fabbrica e l'ospedale sono istituzioni totali, cioè nascono con questa struttura in cui abbiamo una tendenziale omogeneità e standardizzazione e modularità delle pratiche. Per cui è molto difficile fare in parallelo cose con minori stranieri. Abbiamo analfabeti, molti sono analfabeti, ma molti sono plurilingue. abbiamo questa simmetria di gente che arriva con una conoscenza di 3-4 lingue. Lingue non spendibili sul mercato, perché il bambara, il wolof e il pularve non servono un cazzo, diciamocelo chiaramente, mentre pochi parlano l'inglese e il francese in qui. Per cui abbiamo gente che ha una enorme capacità linguistica che si scontra con docenti monolingue. E se ci sono lingue che non conoscono la lingua che dovrebbero insegnare, ma anche con questa è la tragedia vera, che i ragazzi, ma anche da voi c'è una asimmetria, cioè noi abbiamo migranti che sono esperti di intercultura e che sono pluriculturali e plurilingue, che si confrontano con compagni che sono monoculturali e monolingue, perché la presenza degli stranieri non è una sfida accolta dalla scuola italiana. Per cui noi stiamo educando i nostri della patria, i figli della patria, a essere dei perdenti nel panorama internazionale, perché gli stranieri parleranno almeno due lingue, avranno due culture. I nostri studenti, se riescono a parlare l'italiano e hanno mezza cultura, già è un successone. Questo ovviamente crea un casino, perché sono gli analfabeti, non sanno come si tiene la penna in mano, c'è il problema della motricità fine. Ci sono quelli invece che hanno già ci sono studenti, io ho avuto uno studente che si chiama Sulaiman, che è stato rifiutato dalla scuola coranica. La scuola coranica è il corrispettivo come si chiama? Il catechismo, no? Al catechismo notoriamente si prendono tutti. Lui l'avevano rifiutato, la scuola coranica devono imparare a memoria brani al Corano. Deve ripeterli, no? E lo stato rifiutato perché era considerato cretino. Questo studente non era cretino affatto, dico però, diciamo, cioè è arrivato pensando di essere cretino e incapace di dare la penna in mano. Però quelli bravi del GPA sono riusciti a scolarizzarlo, a fargli apprendere a scrivere, a parlare in italiano, e non diventerà un ingegnere. E se ci parlate ora, diciamo, probabilmente dite: ma com'è che gli hanno dato la terza media questi qua, no? Però diciamo, il problema è da dove sono partiti. Il problema grosso è che vengono trasferiti continuamente dal CPA alla seconda accoglienza, e poi quando fanno 18 anni in un altro posto ancora. Significa che loro creano delle reti sociali anche a scuola, che vengono complessivamente tagliate e devono ricominciare da capo. Ultima questione del CPIA, che essendo una scuola pensata per adulti, non ha educazione motoria, non ha educazione artistica, non ha educazione musicale. E forse per adolescenti queste cose, soprattutto l'educazione motoria, potrebbe essere anche utile. E noi vediamo che questi ragazzini che sono ospitati da una scuola media vedono i bambini che giocano a calcio, ma loro non possono neanche entrare perché non hanno l'assicurazione. Loro sono accanto, sono le esattamente. In più scappano da scuola perché dovrebbero lavorare. Allora sarebbe utile accostare alla scuola i corsi di formazione professionale, ma questo non è possibile, perché per accedere alla formazione professionale bisogna avere la licenza media, e quindi questa cosa è io vedo sempre l'osco in marcio in tutti questi processi, e ho come l'impressione, cioè, vedo che la società si porta va avanti alle spalle di altri, quando vediamo la nostra, dai vestiti a tutto quello che utilizziamo, c'è sempre un made in. Ho come l'impressione che li portino qua e c'è un business grosso dietro, cioè dal viaggio, che è un business grosso, all'accoglienza e trasporto, che è un business grosso per alcuni, e paradossalmente magari non si investe su coloro che effettivamente vorrebbero aiutare i ragazzi a migliorarsi. E ho come l'impressione che si voglia andare verso una manovalanza che sia lontana, però che sia qua. E cioè mi riferisco al fatto proprio che e non c'è più di dire, bisogno di dire made in, tanto ce l'abbiamo qua, quelli che ci lavorano, ci fanno i lavori a pochi soldi, è tutto perfettamente legale però. C'è. Tuo nome? C'è questa... no? Tuo nome, sì. Nando. Mi hai anticipato una cosa che volevo dire, grazie. Perché quando vi dicevo delle competenze che diciamo, per differenza noi abbiamo, possiamo pensare per gli operatori. La prima è ovviamente quella interculturale, riguardo l'adolescenza, riguardo la maschilità, riguardo la cultura d'origine. L'altra è quella intersezionale, perché le differenze non vengono a una, ma noi siamo attraversati da tantissime differenze culturali, di genere, di orientamento sessuale, di ceto, di scolarizzazione, tutte queste cose fanno sì che ogni minore straniero non accompagnato sia diverso dagli altri. Se noi trattiamo soltanto come minori stranieri, ci perdiamo una serie di differenze. E allora che gli operatori sappiano leggere, facevo l'esempio di Mamat che si prostituisce per dare il senso di come le differenze si intersechino, e di come è importante che siano lette tutte. La terza competenza era questa politica che anticipava Nando, cioè noi viviamo in uno Stato-nazione. Quando si è creato uno Stato-nazione si è posto il problema di creare i cittadini. Fatta l'Italia bisognava fare gli italiani. Come si sono fatti gli italiani? Si sono fatti con la scuola innanzitutto, con la leva militare obbligatoria e con Mamma Rai. Noi siamo riusciti a costruire degli italiani. Abbiamo omogeneizzato dal punto di vista linguistico. Prima, quando si è fatta l'Unità d'Italia, c'erano le scuole, c'erano i maestri, ma facevano lezione in dialetto, ovviamente, no? Si è creata una più o meno omogeneità culturale. Abbiamo cancellato le minoranze linguistiche, non le abbiamo calcolate, abbiamo costruito i cittadini, li abbiamo costruiti anche con la sanità pubblica, li abbiamo costruiti con un corpo sano, li abbiamo costruiti anche dal punto di vista legislativo, abbiamo creato una popolazione che sa come ci si comporta. Abbiamo con i sindacati, con le industrie, abbiamo creato dei cittadini produttori. Questo comportava un enorme impegno economico. Oggi noi non costruiamo più i cittadini, ma li selezioniamo dall'estero. Le migrazioni avvengono nel momento in cui abbiamo uno smantellamento della sanità pubblica, della scuola pubblica, eccetera, eccetera, della governance nazionale, perché è cambiato il paradigma con la globalizzazione, con il neoliberismo. Noi non ci sobbarchiamo più il costo e l'onere di costruire i lavoratori di domani, ma li selezioniamo, noi abbiamo questa enorme trasfusione di sangue giovane da paesi. Noi siamo l'Italia è a natalità zero, abbiamo una trasfusione perché arrivano i minori e gli adulti non li vogliamo, perché arriva sangue giovane che noi possiamo formare per creare la società di domani. E allora la tua paura, non solo per il business del sistema d'accoglienza che c'è, Mineo, Docet, è un business per la Libia che... Penso che la guerra in Libia sia finanziata quasi esclusivamente dai migranti. C'è un problema politico più generale, cioè qual è il ruolo di insegnanti, operatori, assistenti sociali? Cioè non abbiamo un ruolo esclusivamente di accoglienza, siamo all'interno di un sistema biopolitico che è cambiato, per cui abbiamo un forza lavoro che anche attraverso il razzismo è costruita in maniera subalterna. E allora noi abbiamo un ruolo strategico in questo. Facciamo dei rischi e delle possibilità. I rischi sono il fatto che questo sistema è in rodaggio e non funziona ancora bene, per cui noi abbiamo cosa succede a questi minori stranieri quando diventano adulti? Se poi te ne chiamo 4-5, siamo nel momento in cui stiamo vivendo questo passaggio con i ragazzi. Perché a 18 anni scade la presa in carico. Era possibile aumentarla fino ai 21 anni facendo una forzatura, cioè il tribunale per i minorenni diceva, utilizzava uno strumento che era prima utilizzato per gli italiani delinquenti. Cioè tu sei un delinquente, sei un balordo, hai bisogno che ti seguiamo anche oltre i 18 anni, fino ai 21 anni. Era l'unico strumento, allora noi lo usiamo per i minori stranieri, ma non per tutti, perché soldi non ci sono. Lo utilizziamo per i migliori. Quindi noi abbiamo l'allungamento, avevamo, ora perché ora con la legge Scarpa cambia tutto, per fortuna, non c'è più bisogno, ma utilizzavamo strumenti rieducativi per delinquenti, per i migliori e i meritevoli. A cui davamo? Scusami, sì, nel senso, lasciando in generale poi anche la valutazione dei migliori, bisognerebbe un po' analizzarla, che altro è rispetto ad alcune comunità. C'è. Se mi dai poco fastidio, ti tengo e ti do la possibilità. Se sei frequento al di là delle competenze, del capire, quindi diciamo. In teoria ce la giustifichiamo quelli che meritano, ma in realtà anche lì è una valutazione molto discrezionale rispetto alla sfortuna che hanno i ragazzi di capitare di un centro rispetto all'altro. Certo. Però al di là della struttura ci sono anche altri criteri, tipo l'inserimento scolastico, l'inserimento lavorativo, cioè se promette bene come futuro cittadino di domani. E allora, siccome viviamo in una società che è quella del o si è inclusi o si è esclusi, questo è uno strumento per selezionare, lo siamo anche noi, cioè noi, io sono autoctono, bianchissimo, ci tengo molto alla mia whiteness, però i bianchi autoctoni ci sono, gli inclusi e gli esclusi, no? Questo funziona anche con i miei esseri non accompagnati, cioè se entri in un meccanismo hai delle possibilità di andare avanti, se no la possibilità è quella dell'esclusione. Perché dico il rischio dell'esclusione? Perché ai termini della presa in carico, allo scadere dei termini della presa in carico, noi abbiamo persone che in questi anni sono stati tenuti in situazione di dipendenza, perché abbiamo un'istituzione che si è presa cura di loro. Spesso non hanno appreso l'italiano, perché appunto il CPA non garantisce che apprendano l'italiano. Non sanno come funziona il paese perché vivono reclusi in comunità a Poggio di Dente, per esempio, non hanno un posto dove andare. Non hanno creato legami con gli autoctoni, con gli italiani. Non hanno rapporti creato relazioni con i coetanei. Quindi il rischio è che diventino braccianti sfruttati nelle mani delle agromafie, o che finiscano nel disagio sociale, nella devianza, e che diventino una maggiore spesa sociale. Quindi questo sistema produce integrazione, ma produce anche esclusione. Sfruttamento, disagio, devianza, spesa sociale, per quella che è una enorme ricchezza. Perché i giovani sono il futuro di una società. Allora, così come noi trattiamo male i nostri giovani, perché sono ciusi, sono rompiscatole, sono, come dicono vari ministri della Repubblica, sprechiamo un'enorme ricchezza. Perché noi abbiamo giovani su cui investiamo economicamente, ma che poi corrono il rischio di diventare un problema sociale o una spesa sociale. Allora avrebbe senso ragionare in questi termini per migliorare la possibilità di integrazione. Come? Con le reti post-migrazione. Perché dopo la migrazione spesso sono soli. E allora le cose fondamentali sono nel laboratorio di italiano L2 per pre-alfabeti, analfabeti, debolmente alfabetizzati o alfabetizzati. Tenete conto che la legislazione italiana prevede soltanto il livello A1 e A2 di cui possono occuparsi al CPIA. Né prima, cioè gli analfabeti, né dopo, B1, B2, del quale C1, C2. È fondamentale che si facciano in queste reti, cioè per continuare, non per continuare l'assistenza, ma per permettere a questi giovani migranti di diventare responsabili del loro percorso. Creare network con ONG e associazioni. Questo spesso non capita. I percorsi di peer education con studenti delle scuole superiori. L'unica occasione per entrare in contatto con coetanei. Noi abbiamo fatto l'anno scorso con l'Istituto d'Arte, con il liceo artistico e con un'altra scuola superiore, in cui facevano fotografie insieme, disegnavano, si corteggiavano. È stato l'unico momento in cui c'era grandissima partecipazione, scambio tra coetanei. Sono reti che anche quando fanno 18 anni e abbandonano il CPIA possono mantenersi. Progetti di conoscenza della città. Non parlo soltanto dei monumenti, ma anche dei pub, dei luoghi di incontro. Se devono diventare cittadini, devono conoscere la città. Questo è fondamentale. L'inclusione è un percorso che non è soltanto impara l'italiano e sai dove chiedere i documenti, ma anche come creare un reti. Mediatori e tirocinanti, i grossi assenti del sistema di accoglienza, in particolare del CPIA. I mediatori, che non sono soltanto mediatori linguistici, ma specialmente se sono coetanei possono essere, ma i tirocinanti, perché per ovviare a noi insegnanti anziani con capelli bianchi che siamo stati formati per insegnare letteratura italiana e siamo costretti a insegnare grammatica italiana come seconda lingua, perché poi è facile dire che gli insegnanti fanno schifo, però tenete conto i salti mortali che facciamo. I tirocinanti, non c'è dubbio, ovvio, formazione in ingresso e formazione in itinere sarebbe fondamentale. Non c'è dubbio. I tirocinanti però hanno un vantaggio: sono quasi loro coetanei o loro coetanei realmente, no? E allora le esperienze creano ponti fondamentali. Questo è un piano che andrebbe nelle comunità, nei CPIA, ovunque. Ultima slide, e vi lascio in pace poi, ha a che fare con la narrazione. Perché? Perché questi ragazzi si raccontano continuamente. Sbarcano e gli si chiede, gli danno informazioni, ma gli si chiede anche per separare le vittime di tratta, i minori, no? Centro di prima accoglienza, vengono intervistati. Centro di seconda accoglienza, vengono intervistati. CPIA, vengono intervistati. Tribunale per i minorenni, vengono intervistati. La commissione. ASP. Anche quando fai socializzazione vengono intervistati. Dov'è questa cosetta? Dov'è? Anche quando fai momenti di socializzazione, certo, rispetto, certo, ai coetanei. Certo. Viene per sé più interrogati. Esattamente. Esattamente. La modalità. Esattamente. Cioè, questo però crea un problema e una prospettiva, perché l'ultima cosa era quella delle competenze narrative che dovrebbero avere gli operatori. Perché qual è il problema? Avevo detto poco fa che i minori stranieri sono un gruppo di cui si parla ma che non parla direttamente. Sono oggetto di discorso, mai soggetto di discorso. Questo avviene in genere con tutti gli stranieri. Cioè, noi pensiamo che loro abbiano qualcosa di interessante da dire, ma solo se passa attraverso la nostra interpretazione. Nostra significa dei professori universitari, degli assistenti sociali, no? Cioè come se loro avessero un materiale grezzo che noi raffiniamo. Diceva lui giustamente, vengono interrogati. c'è un problema linguistico, ci sono tanti problemi, ma di fatto loro non è una narrazione spontanea, ma è filtrata alle nostre domande. Però è anche l'unico modo in cui noi diamo loro la parola. In che modo la diamo? In realtà la diamo in maniera falsata, perché non diamo effettivamente loro la possibilità di parlare, ma noi in realtà ci prendiamo la parola. Noi prendiamo la loro parola e ce ne facciamo portavoce. Farsi portavoce non significa dare la parola, ma parlare al posto di qualcun altro. Di fatto questa è la condizione, sia perché sono stranieri, soprattutto perché sono minori, e quindi non adulti e quindi non capaci di intestarsi un discorso. Il problema è che forse dovremmo cominciare a smontare la nostra autorità di adulti, bianchi, residenti, che probabilmente non sono mai, io sì, e anche lui, ma la maggior parte non ha mai fatto l'esperienza della migrazione. Allora noi parliamo a nome di altri per cose che non conosciamo. Però Non c'è dubbio, sì. Il problema è che raccontarsi giustamente tu è un bisogno che è fondamentale per il riconoscimento degli altri, è fondamentale per guardarsi dall'esterno, perché spesso noi ci lasciamo vivere, viviamo quotidianamente. Raccontarci ci permette di vederci dall'esterno e di dare senso, mettere ordine alle cose che diciamo. Per cui un elemento, diciamo, fondamentale rispetto all'empowerment, al darsi potere, alla soggettivazione di questi minori. Il problema è che spesso il loro racconto entra rispetto alla griglia nostra verità-falsità. Hanno veramente 16 anni? Raccontano veramente la verità? Ora, io in questi mesi ho ascoltato un centinaio di racconti in estremi non accompagnati, e si possono riassumere in pochi casi. Ho causato accidentalmente la morte di qualcuno per sfuggire alla polizia. Lo zio stregone voleva che io facessi lo stregone, io non voglio fare sacrifici umani, me ne sono scappato. Il mio padre è morto, il nuovo marito di mia madre mi picchiava, non mi vuole, eccetera eccetera, le ragazze mi obbligavano a un matrimonio forzato con un uomo anziano, io non volevo e sono scappato. L'impressione è che partano già con un racconto, cioè che ci siano nel network dell'emigrazione, si preparino a racconti che loro ritengono possano essere utili per la commissione. Però la maggior parte dei casi sono talmente inverosimili che, diciamo, non hanno. Ma partono da un racconto prestabilito. Al di là di questo, mi è capitato un ragazzino che proveniva dal Gambia e diceva di essere scappato perché l'anziano del villaggio lo aveva scoperto fare sesso con un altro ragazzo. Ora, è una cosa nuova tra i minori, ma tra gli adulti no, perché sanno che una delle vie è il... Io, diciamo, mi sono posto il problema, è vero o non è vero? Ma al di là di questo, le storie precostituite spesso mentono, ma tutti noi, quando raccontiamo, mentiamo. Il problema è capire se è utile distinguere questa cosa, perché spesso noi abbiamo bisogno di dire bugie. Cioè una bugia è un bisogno. E allora ragionare sul bisogno, che può essere bisogno strumentale o può essere un bisogno identitario. Può essere una verità mescolata con una bugia. Il problema è che noi abbiamo una concezione della verità come disvelamento, la letteria, no? Cioè abbiamo, togliamo il velo e vediamo ciò che è. ma il racconto non è disvelamento, è maquillage. Ciascuno di noi quando si racconta si abbellisce, dimentica, interpreta. Quando noi raccontiamo, non raccontiamo il passato, anticipiamo il futuro, anticipiamo il modo in cui noi vogliamo essere visti dagli altri. E allora il racconto è sempre una costruzione, ma è estremamente utile perché ha una funzione autoeducativa, perché vedendomi dal di fuori e raccontandomi io mi costruisco, do senso alla mia vita, vedo da dove sono partito, dove sono ora, e questo dà una direzione, senso, proprio come il senso unico, no? La freccia che ti dice dove stai andando. E allora il raccontarsi è un processo di sense making, cioè io do senso, è una cosa estremamente delicata che andrebbe curata, spesso però noi non lo facciamo. E allora l'altra funzione del racconto è una funzione retrospettiva e retropatica, cioè riguardando la nostra vita, è quello che fanno i minori, la riguardiamo, cioè la vediamo in maniera diversa, la reinterpretiamo, ma riviviamo anche traumi, però le riviviamo a distanza. Questo ha un effetto terapeutico, raccontare i propri traumi ha un effetto terapeutico. C'è gente che ci ha creato un mestiere su questo, anche qua dentro, diciamo psicologa. Dico, ma al di là della sono mediatrice, non sono psicologa, al di là si è sentito tirato in causa. Faccio uscire le altre professioni, sono educatrice. Dico, ma al di là della professionalizzazione, sappiamo che raccontarsi ha questa funzione, ha una funzione identitaria, cioè noi creiamo la nostra identità raccontandoci, ha una funzione terapeutica, ma anche una funzione formativa, perché solo attraverso, vedendoci all'esterno, noi impariamo dalla nostra esperienza. Non è l'esperienza che ci fa apprendere, è il raccontare l'esperienza che ci mette questa distanza tra me che parlo e me che ho vissuto. Allora è una cosa estremamente utile. Il problema è che avviene all'interno di un interrogatorio, cioè di una griglia che noi chiediamo quello che a noi interessa sapere. E allora la domanda finale che ti pongo è: siccome sono venuto qui non a darvi una soluzione, questo come vedete è un work in progress, siccome spesso non c'è occasione di discussione, volevo confrontarmi con voi su come, cioè se le cose che ho detto vi hanno fatto venire idee su possibili spazi della narrazione o su possibili luoghi su come dal punto di vista politico possiamo ripensare il nostro ruolo, che sono ruoli diversi, dal punto di vista dell'intersezionalità, cioè su come le differenze si intersecano e su come possiamo rispondere a questo. Diciamo, e poi diciamo una valutazione politica generale su queste cose. Tenete conto poi che noi siamo i destinatori di queste storie, che dicono quello che noi, che pensano che a noi possa interessare. E il raccontare permette anche di dimenticare. La nostra memoria è selettiva, funziona, ricordiamo solo perché riusciamo a dimenticare alcune cose. E allora, rispetto ai miei estranei non accompagnati, la possibilità di dimenticare e di raccontarsi in maniera diversa è strettamente legato al progetto di vita che possono avere. E allora, accompagnarli in questo delicato processo di narrazione, e secondo me può essere il ruolo trasversale di cui forse hanno più bisogno, forse anche un modo per apprendere noi. Io ho finito, non ho più niente da dire. Grazie. A voi la parola. Quella bottiglia d'acqua è orfana. Sì, ma se vuoi di migrante. Sì, però problema. È di qualcuno? Ok, niente, allora. Grazie mille. Posso. Sì, a questo punto io spegnerei questo e raccoglierei il poveraccio che si è beccato tutta la mia schiena per tutto il tempo. Il poveraccio è stata la cosa migliore che sono detta. Senti qua. No, vabbè, a parte ringraziarti, c'erano due cose che mi venivano in mente mentre tu parlavi. E la prima è una cosa a cui penso spesso, è il tema delle verità e delle narrazioni rispetto alle proprie storie. Io penso che nella tragedia spesso che sta dietro le migrazioni o il processo migratorio di alcuni dei ragazzi che arrivano, c'è anche una grandissima opportunità, che è quella del raccontarsi non soltanto come si è, ma come dicevi tu, come si vorrebbe essere. Penso che questa sia una grande cosa. Io non ci credo alla bugia. Per me non è importante immaginare o sapere cosa esattamente è stato della vita di una persona, ma mi piace sapere cosa immagina e come ha immaginato la sua vita e come la immagina per il futuro. Io spesso anche provo a colorare le mie storie, quello che mi succede, perché non capisco il perché debba essere, cioè non sono un cronista, per cui penso che in questo senso ci sia anche una grande opportunità, e a me non mi interessa capire spesso qual è la verità della storia che sta dietro un qualsiasi ragazzo con cui mi metto a parlare. Mi piace veramente capire quello che sta dietro i suoi desideri, le sue prospettive. Chiaramente in questo spazio, in questi anni, abbiamo affrontato non con teorie, ma con pratiche spesso anche molto confuse, molte delle cose che sono state dette, e chiaramente una risposta non l'abbiamo. Il pensiero politico, però, che penso sia stato adottato e che oggi io immagino come la vera risposta, quella che sta fuori dalle istituzioni, chiaramente, è la comunità, che è una delle parole probabilmente oggi più abusate, ma che se invece acquisisce un senso vero, ha una funzione. Cioè, l'esperienza oggi in Ballarò, su questo tema, l'esperienza oggi in Ballarò racconta di una comunità che è nascosta o non nascosta dietro quasi ogni angolo di questo quartiere, all'interno del quale c'è un progetto probabilmente non particolarmente ragionato, ma condiviso, di cura e di presa in carico anche di moltissimi minori stranieri che abitano in questo quartiere, che sanno che sbattono a volte contro un progetto all'interno del quale tutti dicono la stessa cosa, e sanno che se oggi si danno al crack, perché per adesso sul Ballarò per i minori stranieri è un problema fortissimo, trovano a molti volti Claudio e una serie di persone che li prendono a schiaffi fisicamente o non fisicamente, e che se li sentono 2 ore a parlare, ma 2 metri dopo trovano Yoga, 4 metri dopo trovano Santa Chiara, e potrei continuare per centinaia di metri. E allora probabilmente solo al di là delle professionalità che sono fondamentali, delle competenze, ma solo un impegno collettivo di comunità probabilmente può diciamo far sì che si ragioni su una società nuova, in cui io a volte lo dico quasi con dispiacere per i miei fratellini più piccoli, che non hanno ancora capito che dietro questa sorta di invasione ci sta il fatto che loro fra 20 anni saranno fottuti, perché come diceva qualcuno l'altra volta qua, se ti fai rubare il lavoro da uno che non ha genitori, non ha famiglia, non ha reti relazionali, non parla la tua lingua, eccetera eccetera, sei poco sfigato. E allora, diciamo, dietro questa battuta ci sta il fatto che veramente fra 20 anni io immagino che ci, io spero che ci sia veramente un sistema anche meritocratico all'interno del quale loro possono, molti di loro possono riuscire a, a dare il meglio di sé, o quantomeno a realizzare i loro desideri. Però la comunità per me è la cosa veramente, forse la parola più abusata, però è la risposta più concreta che io riesco oggi ad osservare in, in molte delle cose che facciamo, e che sta secondo me provando a dare dei risultati concreti. Dico due parole anche ricollegando quello che diceva Giuseppe, anche rispetto ad alcune cose che sono uscite nel Nicolò di Federico. C'è una cosa che ritorna, che è ritornata quasi in tutte le altre altri incontri, che appunto il superare la retorica del parlare, del dare voce a chi non ha voce. E che negli incontri precedenti lo ponevamo come uno dei forti problemi di carattere epistemologico che l'educatore si trova ad affrontare, con tutto il portato salvifico paternalista che questo ha nei confronti dei destinatari degli interventi. Io penso che, e lo dicevo anche altre volte, che accanto al dare voce a chi non ha voce, questo riveli una presunzione nell'essere capace di dare voce a qualcun altro e una incapacità di esprimere una propria voce. E nel ritorno sulla questione della narrazione di sé, ognuno di noi, se io mi racconto al mio psicanalista o mi devo raccontare durante un interrogatorio in questura come parlo di me ad un amico, a una moglie o in un colloquio di lavoro, sono evidentemente giochi linguistici assolutamente differenti. Ed è chiaro che il gioco linguistico a cui il migrante, genericamente, nel raccontarsi è chiamato, è un gioco linguistico strettamente messo entro dei binari istituzionali da cui dipende anche gran parte del suo futuro, in cui la questione della verità o della non verità è assolutamente irrilevante e non fa certamente parte di un processo di cura del sé, di elaborazione dei propri drammi. In più, accanto a questa difficoltà di trovare uno spazio di narrazione del sé che serve semplicemente a farsi del bene o a farsene qualcosa, c'è anche un doversi confrontare. Noi da un lato ci confrontiamo appunto con le narrazioni stereotipate, artificiali e sempre più simili che i confini di commissione, questure, robe varie un po'. E dall'altro noi ci confrontiamo con una narrazione generale della questione di migrazione. Chiunque accende Rete 4 tra le 7 e le 9 di sera, ma in generale tutti gli altri canali a qualsiasi ora, ha una narrazione con cui anche nel proprio lavoro si trova a confrontarsi, perché è vero che noi tutti viviamo a stretto contatto con la bellezza, le risorse e la fantastica esperienza che la società interculturale ci riserva, ma il nostro operato dal punto di vista della narrazione complessiva di come la narrazione complessiva si traduce in norme giuridiche, in prassi amministrative, che vanno completamente in controtendenza rispetto a quelli che sono anche le nostre esperienze di vita. Io per questo penso, anche rispetto a quello che dicevo nel primo incontro, ma penso che sulla questione immigrazione sia ancora più marcato che quando ci si occupa di periferie, tossicodipendenza o quant'altro, penso che un po' anche in ogni caso, ma penso che nel nostro lavoro l'esplicitare il proprio posizionamento politico sia un passaggio fondamentale, e che io non posso fare l'educatore o il responsabile di una comunità per minori senza avere chiaro qual è il contesto normativo, giuridico e narrativo entro cui io voglio lavorare, senza che io abbia un giudizio anche critico nei confronti di quella cosa. Se io pensassi che se io dovessi fare il mio lavoro rispettando alla lettera quello che mi viene chiesto, anche in qualità di pubblico ufficiale come lo sono diventato, perché per Integro Cognitivi i responsabili della comunità nelle notifiche dei provvedimenti, delle comunicazioni della commissione sono tutti gli effetti dei pubblici ufficiali. E io ho avuto ragazzi di 34 anni, minori stranieri di 34 anni in comunità, che per me 37 ma se io non avessi assoluta consapevolezza che la necessità di di restringersi l'età è dovuta alle restrizioni della legge italiana e che quello lì è un escamotage che io reputo assolutamente legittimo, e tra l'altro penso che sia assolutamente scorretto pensare che debbano essere responsabili della comunità ad andare a denunciare l'età del ragazzo. E questo qua lo dico perché rispetto alle cose che diceva Giuseppe, facendo anche un po' i conti con il mio lavoro, che io faccio responsabile di una comunità per minori in cui vivono sia minori italiani che minori stranieri. Allora, io penso che insieme a tutte le cose che dicevi tu, penso che ci sia un livello fondamentale, che secondo me però c'è, che è quello della conquista di spazio pubblico. Io penso che gran parte delle informazioni su come si vive in Italia passano, arrivano migranti e pomeriggio al Foro Italico o al Prato Verde della Favorita, nei momenti in cui ci sono spazi di relazioni tra pari della stessa comunità, che chi è arrivato un anno prima passa a chi è appena arrivato. E questo penso sia un livello fondamentale, quanto più si allarga all'interno del tessuto cittadino. Io penso che, per esempio, esperienze come quella di molti volti, o anche del Porco Rosso, in cui l'intervento che fa il Porco Rosso nei confronti dei minori stranieri è dare la password della Wi-Fi, che questo comporta che ci siano un sacco di ragazzi che accedono a quel posto per un servizio banale, che però quel posto diventa il luogo in cui si seguono in diretta i risultati delle elezioni in Gambia e in cui si organizzano le assemblee sul permesso di soggiorno, sulle problematiche dei minori. O del Bangladesh, per esempio, si organizzano le assemblee degli ambulanti. Esattamente. Diciamo, molti ragazzi dei centri insieme a ragazzi studenti palermitani, cioè, diciamo che si scambia linguistici, e tanto più occasione anche di incontro, e tanto più questi momenti avvengono fuori da canali di istituzionalizzazione. Se io facessi il percorso, penso che quando noi facciamo la partita del militare antirazzista, in cui, che ha un valore strepitoso nel far incontrare ragazzi di tutto il mondo e di tutta la città, ha comunque un valore minore rispetto a quando i ragazzi si vanno a organizzare la partita da soli il pomeriggio. E dico l'ultima cosa, anche rispetto al mio ruolo. Io ho avuto lunga esperienza con i migranti prima di incominciare a fare per puro caso il responsabile di comunità, cioè già lo facevo, però poi sono arrivati i minori stranieri. È una cosa, un imperativo categorico che mi ero dato, era quello di non parlare. Io ho rifiutato per anni incontri in cui si parlasse di migrazione, proprio per rifiutarmi di parlare a nome di migranti. E io penso che per, come dire, rispondere alla, per rispondere al proprio dovere di accoglienza, ma per non ricadere nel, nell'ambito del paternalismo, dell'assistenzialismo, io penso che il mio ruolo debba essere dare quanti più strumenti di autonomia e, sotto ogni punto di vista, linguistico, legislativo e di e quanto è possibile economico e soprattutto di cognizione del mondo, senza sostituirmi mai a loro, che comunque è una cosa sempre molto molto molto difficile. Ce l'hai data voce. Sì. Io capisco la suggestione. Ma questo penso che Judith. Io mi sono trovato a dare voce ai senza voce quando mi presentavano in prossimità della commissione la storia, il regime che non reggeva completamente, e noi ci siamo trovati a costruire anche da zero una storia che rispondesse ai criteri della commissione, in modo da poter ottenere. Avrei l'accenda vicino a me, non sarò da sola. Assolutamente sì, no, nel senso, per quanto ora poi ci sono dei limiti in qui, appunto, perché la responsabilità secondo me è quella della materia più di strumenti. Rispetto un po' al, così, delle cose che avevo affrontato, io mi rivedevo, rispetto appunto al fatto che appunto i minori, i migranti in generale, abbiano difficoltà a narrarsi, perché appunto è talmente palese a volte quello che l'altro vuole sentirsi dire, che ovviamente viene falsificata, viene deviata, è vero che c'è la preparazione, quindi l'obiettivo diventa la regolarizzazione, e nel tempo in realtà poi abbiamo perso la capacità di ascoltare veramente, perché se li ascoltassimo veramente anche nelle storie strambalate o nelle cosiddette bugie, c'è tutto quello che devi sapere di cui a volte, se solo li prendessimo un po' ad ascoltarli realmente anche nella bugia, diciamo, invece c'è proprio un preconcetto, cioè ormai io in 4 anni vedo proprio le cose trasformate, quindi è nella persona, è nel cambio, già chi li ascolta ha prestabilito in realtà un po' tutto. E io spesso dico veramente che si apprende dall'esperienza. Io ringrazio sempre i ragazzi con cui faccio un percorso di vita, del fatto che me le mettono in faccia, quindi perché si deve, un po' rispetto anche alle giovani donne, nel senso, è chiaro che in Africa non si parla di gravidanza precoce o di essere la cosa più naturale di questo mondo, poi a volte invece appunto te lo dimentichi, sei talmente proiettata, lavori talmente all'interno delle categorie che quando ti arriva una ragazza incinta di 16 anni tu hai stabilito che è violentata, che è chissà cosa, e che il figlio non lo vuole, sì, che non lo vuole. Anche perché appunto io ho l'esperienza facendo la mediatrice all'ASP, e quindi sono, le cose le vedo da un certo punto di vista, quindi accolgo anche quelle che sono le esigenze degli operatori che le portano allo SPRA e altro. Quindi un po' l'esperienza dell'ASP è che vengono gli operatori ad accompagnare questo ragazzino o questa ragazzina, prima ancora di parlare con i ragazzi loro comunque già ti raccontano la storia senza avergli parlato. Perché poi non hanno i mediatori magari specifico alla lingua, però intanto ti dicono già, è violentata, le malattie infettive, con la diagnosi anche delle visite che dovrebbero fare, e quindi a un certo punto diceva. Poi quello che si scopre, nel senso che sono delle cose dell'individualità, è magari appunto fai un colloquio con una ragazzina di 16 anni appena che ha partorito, scopri che in realtà che non è mai stata violentata. Che il compagno è rimasto indietro perché i soldi non bastavano appunto per finanziare, diciamo, tutto il viaggio, e a un certo punto lei poi ti dice, quando ti fai queste domande cercando di capire, e lei ti dice: ma perché gli italiani vogliono mio figlio? E dico: in che senso? Perché la mia volta era stata sanzionata incinta in un'altra comunità, quando ha partorito, siccome appunto erano convinti che fosse figlio di una violenza, e quando è arrivata era già al quinto mese, quindi non gli hanno proposto nulla, anche perché non hanno cercato il mediatore della lingua. Lei mi diceva, non capisco perché quando è andato mi dicevano, guarda, tu te ne puoi andare, il bambino ce lo teniamo, no? E io a un certo punto dico, allora guarda, ma lo sai perché il viaggio, quanto è duro, sai quello che succede, quindi è... Quindi a volte può capitare appunto che magari appunto è una gravidanza che non si vuole, magari se... E lei a un certo punto con una naturalezza incredibile fa, ma è sempre mio figlio, anche se fosse è mio figlio. Quindi la conclusione è stata, quindi mi stai dicendo che le italiane se subiscono delle situazioni particolari, i bambini li abbandonano, quindi faceva anche questa distinzione per dire a volte è perché non costringiamo, facciamo delle scelte anche rispetto agli abusi e agli aborti, quindi all'interruzione di gravidanza, che è una situazione molto delicata dove secondo me va a toccare poi delle cose nostre molto intime rispetto, non considerando quello che sta vivendo la ragazza, facciamo delle scelte senza veramente fare, poi senza ascoltare le ragazze rispetto a questa situazione che vivono. Quindi in realtà è vero che è diventato sempre molto più facile, molto più automatico dare voce alle migranti, ai migranti, prima ancora che loro chiedano. Invece in situazione magari appunto devi inventarti, io non so come si fa a permettere che l'altro possa narrarsi in maniera un po' più naturale, serena, ma per dare ordine un po' a quella che è la sua esperienza. Io invento, ci invento in base alla persona, nel senso essere creativi. Io allo SMRAR ho eliminato la scheda della prima accoglienza, in cui ogni volta che c'è il monitoraggio vengo munita, vengo nel senso che non sono brava. Io dico va bene. Questa è la convocazione tribunale. Io non ce l'ho, perché ho scelto di non farlo. Di solito mi riferisco un po' per avere un'idea se vengono nelle comunità rispetto a quello che mi scrive la comunità dando fiducia, nel senso leggo. Poi tutta la parte della storia viene raccolta, ma non in maniera formale, ci prendiamo il tè facendo la passeggiata, ma parlando di cos'è l'albero, che diventa uno stimolo. Per dirti, ultimamente io non sapevo, per dirti che dopo un anno, rispetto a una mia, al mio cazziatone, a un certo punto il ragazzo torna e qui fa un racconto di sua madre, ancora molto più approfondito, perché alcune cose mie gli aveva ricordato che erano uguali alla madre. Quindi forse è questo, cioè rispetto poi allo spazio di raccontarsi in maniera più autentica e non soffermarsi a queste belle schede che dobbiamo per forza rispettare, che ormai ce le abbiamo anche in testa, ma utilizzare appunto creativa, un po' utilizzare delle cose un po' più elementari, naturali, che potrebbe essere la passeggiata, il tè, e a volte poi il cazziatone diventa lo stimolo per raccontarsi rispetto a una cosa molto intima, ma dove fa anche il collegamento a quanto si è cresciuto. Io volevo ricollegarmi, diciamo, al filone del malessere dell'operatore. Se sta parlando, è anche bene, fa anche bene, se sta parlando anche dei ragazzi. Io volevo, diciamo, fare una domanda a coloro che operano nel settore, perché mi è sembrato di capire che questo aumento di arrivi di adolescenti sia in qualche modo una richiesta. Cioè è richiesto che dall'Africa o da altre zone arrivino giovani. E in qualche modo è una richiesta che parte dagli stati nei quali arriva. Cioè, se ho capito bene, per farla semplice, cioè l'Italia richiede giovani, richiede che arrivino ragazzi giovani qua per determinati scopi X o Y. E l'operatore, che in qualche modo è rappresentante dello Stato, come si sente a dover rappresentare questo Stato che vi richiede per certi scopi che possono essere più o meno, non so, come vi sentite a dover rappresentare l'Italia che vi richiede probabilmente per scopi che non vi appartengono? Cioè, come vedete questo malessere? o meno di sono italiano, voglio per andare nei campi a, a lavorare con i soldi. Politica, però ci lavori, quindi ci lavori perché ci lavora, e sporchi le mani e lavori in quelle strutture che denigri. Io ho fatto una ricerca dell'Università di Torino da antropologa nei CARA a livello nazionale con un'altra collega, una ragazza, un etnopsichiatra del centro transfamante di Torino, che ha detto, i CARA possono chiudere, non sono migliorabili, sono strutture assolutamente carcerali, cioè non c'è modo, non può migliorare il caro, non è che diciamo lo miravo da dentro, deve chiudere come il CIE, per non chiudere. Questo è il risultato di 2 anni di ricerca. Anche a Torino, cioè, all'unanimità, al centro pronomi, che sia antropologia, sociologia e pedagogia, queste strutture sono o da completamente boicottare, o se ci si lavora all'interno, queste domande bisogna essere ogni giorno. Ora, posto che secondo me la comunità di minori stranieri non è il CARA e non è il CIE, secondo me, è ben diverso il tipo di compromesso che è richiesto. Ma anch'io ho lavorato in una comunità e no, scappata come Gabriele, l'ho dimessa con tutto il tempo determinato, mi sono dimessa felicemente perché credendo io fortemente nella narrazione, quale momento di scambio reale, ma credo anche che la narrazione ha necessario bisogno di una libertà che in quel tipo di centro è difficile crearsi, non perché l'operatore non sia in grado, ma perché per come oggi è strutturata la comunità di minori, la stessa sofferenza che ha avuto Gabriele, è molto difficile creare una relazione libera tra le persone. Così come lo è all'interno di un carcere, perché tu qualche, perché io assomiglio molto alla forma carceraria, le tue le chiavi, io mi ricordo quando ho avuto uno scontro molto violento con la ragazza di tua comunità. Io non la potevo far uscire, assolutamente. Cioè, ordini. E se la giustizia, infatti, è successo un bordello, perché quello lei l'altro non scappava. Perché io non chiuso a chiave, che era un bordello. Insomma. Quindi o sei sovversivo, quando lavori con questo tipo di persone, e quindi sovversivo significa che hai boicottato completamente l'istituzione, non ci lavori, oppure, secondo questa è un'opinione, sicuramente spassionata, oppure è questo perché tante ricerche dimostrano quanto queste strutture siano molto, molto opprimenti, proprio opprimenti. Non anche la scuola, ma la scuola questi spazi libertari si possono creare. E invece strutture opprimenti, il malessere dell'operatore penso sia quasi allo stesso livello dell'utente, cioè chi crede nella libertà di azione, chi si mobilita contro le frontiere. Questa è una frontiera bella, a casa nostra, dove tu stabilisci se può uscire o non può uscire, se deve andare in quella scuola, cioè fai appunto, lo tratti con un bambino non è, lo scopo viene affibbi un altro e questa è la comunità. Però, probabilmente, e questa è stata una proposta che io ho fatto ai valdesi, che anche loro hanno all'interno della comunità di minori, e abbiamo fatto con la mia associazione di antropologi e sociologi questa richiesta a varie comunità, la richiesta è stata di creare una ricercazione con i giovani che vivono all'interno delle comunità per vedere con la loro voce e la loro, non dando io la voce ma ascoltando realmente quello che c'è da dire e raccontare di queste strutture, non lavorandoci dentro perché altrimenti sarebbe molto asimmetrico il rapporto, però poter avere all'interno di queste strutture professionalità che passano queste strutture. Ad esempio, quello che mi sono sempre chiesta è per quale motivo, cioè lo sappiamo per quale motivo, però non ha senso secondo me, che dentro la comunità vengono richiesti degli educatori. Cioè secondo me le figure a ciclo della guardia mica non è l'educatore che lavora nella comunità di minori che vengono da ISIS, guerra e quant'altro. Sono richiesti mediatori culturali, sono richiesti psicoterapeuti, etnopsicoterapeuti, sono richiesti accompagnatori legali, avvocati. Non esiste l'educatore in comunità, appunto perché non può essere bambinizzato in assoluto a tal punto da affibbiare un educatore. Quindi io critico moltissimo proprio la struttura a monte, sia con le professionalità che ha al suo interno, sia quello che viene richiesto dall'educatore, che è un compito allucinante. Allora c'è chi è in grado di sostenerlo, io no. C'è chi non è in grado di sostenerlo. Posso farti una domanda? Ora ti risponde, ora se la domanda la parola ti rispondo. Magari rispondi pure, penso possa rispondere, è proprio. È il senso, c'è la politica a cui faceva riferimento probabilmente Giuseppe prima. Esistono, secondo voi, dico, questa cosa la stiamo vedendo in tanti fronti, su tanti fronti, delle vie di mezzo tra l'adesione totale a un sistema e il boicottaggio totale che prevede che noi da quel sistema ne stiamo fuori. Cioè, esistono delle forme di mezzo che prevedono che noi stiamo dentro le cose e dentro le cose usiamo dei criteri che non sono la legalità, l'illegalità, certo, ma sono altri. E infatti questo spazio di narrazione va molto approfondito. Questo dicevo, se ne sa stressa male. No, no, no, era la domanda, infatti non era. Care C e bom, per me possiamo chiudere. E la comunità non è da chiudere, perché sì, ragazzi, hanno necessità di un luogo in cui abitare, di vivere la quotidianità, che non siamo solo le strutture educative. Ecco, che diventi una struttura educativa, secondo me, è l'errore. Cioè dovrebbe essere una struttura dove interagiscono professionalità e luoghi più mista. Questo tipo di propongo io come cambiamento all'interno, le vie di mezzo. In realtà ci dovrebbe essere un'accoglienza diffusa, che non c'è. Esatto, esattamente. Diciamo, la soluzione sarebbe un'accoglienza diffusa. Esattamente. Che sarebbe molto più, tra virgolette, simile nei paesi europei, però diciamo con l'attenzione, con la metodologia rispetto, diciamo, al sistema italiano. Esatto. In quel caso, secondo me, appunto, che sia l'educatore, che poi l'educatore come orientatore, che poi le varie professionalità possono girare, però con l'autonomia della vita. Quindi la soluzione sarebbe l'accoglienza diffusa, però diciamo... Secondo me anche, cioè andrebbe l'accoglienza diffusa, che già è stata sperimentata. Un po' comunque... negli SPRAR viene sperimentata, esatto. Cioè nel senso nello SPRAR del nord, perché in una maniera no, non è così. Ma io infatti a Torino ho avuto modo di vedere una sezione completamente differente. E a Cipro per racconti. Sì. Poi rispetto però anche al fatto, appunto, come fa una a criticare il sistema, certo, non lo, nel senso, o se no, no, fuori completamente, me... ma hai ragione, perché poi per chi lavora, secondo me, poi nel sistema, ecco, al di là dei centri, è chiaro che è tipo un momento di conflitto rispetto proprio al sistema politico delle cose come vanno. Soprattutto poi se ti trovi a lavorare in contesti dove tu non puoi aprire la ragazza che deve andare a fare la passeggiata, penso che poi qui è una cosa, no, è una cosa molto soggettiva, esatto. Secondo me, nel senso, io ho scelto di lavorare per un ordine, per un'associazione, perché c'erano delle condizioni ben precise dove mi lasciavano libera totalmente rispetto a qual era la gestione, mentre in altri posti me ne sono andata, mi sono licenziata, ho detto di fare la vascale rispetto a delle condizioni che non mi appartenevano. Infatti, quindi forse la soluzione attualmente, diciamo, in questa cosa è scegliere dove... Sì, ma io questo è quello che mi risuona fortemente, perché ho detto qua possibile, ma che tutte le comunità, no, sono tutte uguali le comunità. Perché io non lo so, perché non ho la cittadinanza, per quanto coordinatrice, vedi come sono fortunata. Ma io penso che sono contenta, no, non sono contenta per questo motivo di non averla. No. Certo, tu non mi sei. Sono complice, contenta di essere extracomunitaria perché non me la danno questa funzione. Però tu la puoi anche. Io penso che una cosa sia un CIE e una cosa sono comunità per minore. E l'ho detto la cosa. Senti, c'è che dici sono pubblico, ufficiale. Cioè come io. Sbirra mia. Ma che sono giudice. Lascio stare cosa penso dei CIE. Certo, io lo diamo per sempre. Allora, io beh. Io lavoro in una comunità in cui c'ho ragazzi italiani e ragazzi stranieri e penso che per lavorare con i ragazzi italiani e i ragazzi stranieri all'interno della comunità ci sia un elemento comune, più di un elemento, ma un elemento sia sicuramente comune. O tu concordi con i ragazzi, con la persona in questione, su quali sono le ragioni per cui lui è lì e quindi anche i confini e regole, i doveri e i diritti su, per cui lui è lì, oppure non c'è possibilità di lavorare. Se il ragazzo è lì solamente perché è mandato da un tribunale o da un provvedimento di qualsiasi tipo, non solo non è possibile lavorare, ma anche ci sarà poco, visto che la comunità, la porta è sempre aperta. E questo è un fatto. C'è una questione. Io mi trovo a lavorare con ragazzi con cui c'è una condivisione totale del percorso e con degli emeriti stronzi. Certo. E con Osman o Kebba o Mukhtar, che Mukhtar ha fatto la commissione, dopo 3 mesi era arrivato in Italia, ha bloccato l'interprete e ha detto continuo io in italiano, perché in 3 mesi ho già imparato l'italiano perfettamente. Tutti 8 a scuola, cioè quando vado ai ricevimenti di Mukhtar, quelli dicono io vengo a scuola solo per lui, questi qua sono per lui. E con lui è facile, cioè come dire, lui sa che ha preso, che gli stiamo, c'è il, come dire, l'alleanza di convivenza, cioè io imparo l'italiano, sto imparando la professionalità, ho il permesso di soggiorno e tutte cose varie. Quando c'è invece quello lì che è un emerito stronzo, che pensa che tu sei un coglione e che devi sbrigarti a fargli avere il passaporto, non il permesso di soggiorno, ma il, come dire, il biglietto per la Germania, velocemente, e che pensi che è una persona con cui tipo, tendenzialmente vorresti parlare il meno possibile, oppure anche con la persona sicuramente molto, la persona che, come dire, che rientra molto meno nei requisiti del simpatico ragazzino grazioso, volenteroso, ma disperato, analfabeta, depresso e sempre a letto. Io penso che il mio ruolo, anche per lo stronzo di Lai, sia fargli avere il permesso di soggiorno. Tendenzialmente più presto possibile, così prima sia la bella. Però io penso che le tutele giuridiche e il confini, come dire, gli strumenti linguistici, culturali, tendenzialmente penso che debbano essere, il mio lavoro sia quello di farvi accedere più gente possibile. Dico un'altra cosa, proprio perché la questione di Giuseppe sulla prospettiva intersezionale, e a me torna, e su questo con mia moglie ogni tanto abbiamo discussioni sulla questione delle culture. È chiaro, i ragazzi che vengono dal Centro Africa hanno molti elementi culturali, come termine vaghissimo, comuni rispetto a quelli che vengono dal Maghreb, quelli italiani, quelli cinesi, quelli... Ma io questa cosa qua non mi convince, nel senso che a letto che ognuno viene da un posto, io penso che un adolescente gambiano che ha fatto la scuola, che è appassionato di calcio e ha più cose in comune con un italiano adolescente che con una donna gambiana che non è mai andata a scuola, che non ha mai visto un videogioco, che non ha mai ascoltato musica, per cui io penso che avere a che fare con le culture diverse sia anche un lavoro di vedere quelle culture non come dei, cioè io penso che Ben Mohammed ci sono due universi diversi, che sono nello stesso paese, che sulla carta d'identità siamo la stessa età. Sì. Ma siamo entrambi italiani. Esattamente. C'è anche la persona che ci dimentichiamo rispetto. Se noi prendiamo il luogo di nascita come unico dato in interessante, io e Gerino Alfano siamo della stessa città e dello stesso liceo, capito? E della stessa coalizione. E della stessa coalizione. Era compagno di scuola di Giovanni. Esatto. Compagno di classe di Giovanni, compagno di scuola mio. Compagno di scuola mia, Gerino. Non posso dire una cosa che non c'è nessuno altro che posso fare parlando. Una cosa sul fatto che i minori stranieri non accompagnati sono, secondo me, egoisticamente estremamente utili per noi, e che in qualche maniera il ruolo degli operatori che si occupano di minori stranieri non accompagnati in realtà indirettamente si occupano anche di italiani, perché quello che diceva tutto poco fa, cioè che la questione dell'interrogare gli altri ha a che fare con una difficoltà di dirsi in noi italiani, di esprimere la propria voce, quindi è palpabile per chi lavora con adolescenti italiani e migranti stranieri non accompagnati, perché spesso sembrano molto più disorientati gli italiani che gli stranieri. Perché vengono da società che hanno una struttura comunitaria, vengono a volte da una forma di educazione che non è quella familiare, ma che è della comunità. Cioè la comunità ti insegna, anche se tu non hai genitori, come minimo, mentre queste strutture non ci sono più da noi. E forse noi abbiamo un problema che vediamo a riflesso nei minori stranieri. È un problema di... ci dà il senso del futuro che stiamo distruggendo, del nostro futuro, perché quando ci sono bambini cinesi in una classe, i nostri studenti non apprendono l'italiano. Loro apprendono l'italiano, ma i nostri studenti non apprendono il cinese. Ora, apprendere la lingua della probabilmente prima potenza mondiale del pianeta del futuro, quando si parla di globalizzazione, dovrebbe essere l'ABC, no? Cioè tu sei in una in crisi economica, c'è la globalizzazione, hai studenti che parlano una lingua che sarà probabilmente l'inglese del futuro e non la fai apprendere ai tuoi alunni. È una perdita enorme. Ci riflette il nostro modo di rapportarci all'alterità, che è un problema nostro, perché noi ci rapportiamo all'alterità o negandola, cancellandola con il razzismo, con l'odio, oppure riconoscendo nell'altro cose che già conosciamo in noi. È come me, abbiamo queste cose in comune. In realtà in questa maniera ci perdiamo l'opportunità di apprendere cose diverse da noi. Però o le neghiamo, quelle negative, cioè negative rispetto a noi, o ci concentriamo sulle cose in comune, mentre lo sforzo utile sarebbe apprendere ciò che non conosciamo, ciò che è diverso da noi, mentre c'è un bisogno narcisistico di conferma, no? Il mito del bravo migrante integrato, perché ci rimanda un'immagine di noi che è confortante. Però è anche un problema di scambio interculturale, per cui secondo me gli educatori invece sono fondamentali per i minori, perché l'educazione non è soltanto per i bambini, è educazione anche per gli adulti. Noi siamo continuamente in una situazione di apprendimento, perché penso quelle cose che ho detto sulla costruzione della maschilità, costruzione dell'adultità, l'intersezionalità, pensavo ai fatti di successi in Germania a Capodanno di molestie sessuali. I fatti non successi. Colonia. Sì. Come? Fatti non successi. Sì, perché c'erano due episodi. Un esattamente, sono episodi amplificati in cui c'erano molti tedeschi non che hanno. Era successo in Colonia, che era quello che non era successo, e poi dopo un po' è successo in un altro posto. Io ricordo il contrario, cioè che il primo episodio era in realtà ci sono stati anche dei migranti e dei richiedenti asilo, ma c'erano anche i tedeschi. È vero che sono una notizia gonfiata e che è legata alla xenofobia, ma io mi pongo il problema: se io sono abituato a un rapporto con il corpo femminile all'abordaggio che ho visto a, a Parigi quando ero giovane, il africani abbordare donne per strada in modi che alla mia sensibilità erano troppo rude. E il, qual è il confine tra l'abordaggio alla mia maniera e la molestia? Okay? Allora, ragionare in termini interculturali significa che se dobbiamo stare insieme, dobbiamo anche scambiarci i modi in cui, cioè è un processo di apprendimento per noi come un processo di apprendimento per chi immigra, no? Allora in questo caso è un problema collettivo di educarci alla, alla differenza, perché il, per esempio al contrario io cedo la strada alle donne, siamo davanti a una porta, dico prego, in alcune culture questo è faccio figura del coglione, perché il, l'uomo passa per qui, no? Ovvio, no? Oppure quando io insegniamo in Marocco e rivolgevo le parole alle donne per strada per chiedere le indicazioni, poi sai che non lo fai, cioè è un problema di apprendimento reciproco, ma è un problema di apprendimento nostro rispetto a alcune cose che possiamo imparare. Primo, riutilizzare la parola razza, perché è una parola che non usiamo più, che però che è uscita dal nostro vocabolario, ma che agisce ovviamente, lo vediamo quando diamo del tu a uno che ha la pelle scura e non, no? È la razza dei tre colori della pelle. Noi abbiamo un trauma europeo, che è la Shoah. Dall'ora in poi non abbiamo più parlato di razza, tralasciando l'altro elemento, cioè il colonialismo. Perché la nostra, il concetto di razza ha questi due fronti. Per me, noi celebriamo la giornata della memoria nel momento in cui creiamo muri e espelliamo i stranieri o facciamo arretate di tipo etnico come la stazione di Milano. Allora questo è un problema, cioè noi abbiamo un problema con la parola razza. Questo fa sì che non leggiamo il razzismo. Per cui il, ora forse dovremmo farci culturalmente conti col trauma e ragionare in termini di razza. Questo ci permette di ragionare anche sulla nostra razza, perché la razza italiana esiste e si è costruita, perché a Ellis Island i nostri migranti venivano considerati di razza africana, in, come diceva il Cavour dei meridionali, dopo l'unità d'Italia, dicevano che erano selvaggi africani. Noi meridionali siamo diventati bianchi grazie al fatto che c'era qualcuno più nero di noi, che erano le nostre colonie. La parola colonia, De Gasperi la usava tanto per le colonie in Africa quanto per gli emigranti italiani negli Stati Uniti, erano considerate comunque colonie. Il fatto di fare conti con la nostra bianchezza è come noi, anche in termini di pubblicità, no? Che siamo cresciuti con detersivi che più bianco non si può. Il detersivo deve fare pulito, non deve fare bianco. Però abbiamo associato al bianco una serie di valori positivi. La pubblicità per il detersivo per sbiancare i denti, no? Se abbiamo un problema no, col bianco, con Fiona May che fa la pubblicità delle cose che si mangiano. Questo in che modo è legato col colonialismo, con la prostituzione nigeriana? Perché a noi piacciono le nere, culturalmente dico? Perché noi abbiamo la pubblicità del caffè con donne africane seminude? Sono tutte cose che hanno a che fare con un simbolico con cui non abbiamo mai fatto i conti. Allora il modo per ragionare sull'alterità forse è ragionare sul noi, su come abbiamo costruito la nostra bianchezza, che è una costruzione. Lo dico perché il colonialismo non è mai finito, è quello che diceva, cioè, anziché sfruttarli a casa loro, ce li facciamo direttamente qui in casa, anziché avere le chanmut, le madame in Africa, le abbiamo qui. Lo dico perché le interviste ai clienti e alle nigeriane parlano di è come fare un safari, vado a caccia delle negrone, loro sono quasi animali, con loro puoi fare tutto. Cioè c'è un immaginario che evidentemente è di stampo coloniale. I conti con le colonie, noi, con il nostro colonialismo non l'abbiamo fatto. Io ho scoperto una cosa drammatica, e noi avevamo per pochi anni una piccola colonia, un'isola, pure in Cina. Quindi questo mi ha scritto ora negli scambi tra le nazioni, per un periodo abbiamo avuto anche una piccola colonia in Cina. L'ultima questione, io ho un aperitivo. Quando chiudiamo? possiamo chiudere. Grazie. Grazie a te. Allora continuiamo.